Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Una puntata speciale del Cacciatore di Libri che va in onda da Courmayeur, dove si sta svolgendo il Festival del Noir, un festival che riguarda cinema e letteratura. Per quanto riguarda i romanzi, il re incontrastato del noir a livello mondiale è l'americano Don Winslow. Famosissimo il suo romanzo Le Belve, dal quale Oliver Stone ha tratto un film che è già uscito anche in Italia. L'ultimo noir di Don Winslow invece è uscito da noi da pochissimo praticamente, si intitola I Re del Mondo, pubblicato da Einaudi ed è un prequel di Le Belve. Si racconta infatti la gioventù dei tre protagonisti. Ma che cosa ha portato Don Winslow a scrivere un prequel? È stato spinto dal grande successo delle Belve? Marta Cagnola l'ha chiesto allo stesso scrittore americano che è qui a Courmayeur per ritirare il premio Chandler 2012. I just wasn't done with them. I wasn't ready to say goodbye, you know. No, non è per il successo di Le Belve, ma perché non avevo ancora finito con questi personaggi. Le loro storie le avevo già in testa quando ho scritto Le Belve, ma in quel romanzo volevo entrare subito nell'azione. Volevo scrivere con un ritmo travolgente. Con I Re del Mondo volevo scrivere una storia di riflessione, cioè un ritmo più lento. I wanted to write a more reflective story. Come è nata l'idea di questi personaggi? Si è ispirato a persone vere? Dove è nata l'ispirazione? Very much out of reality. You know, it's funny. I always have this argument with New York editors. Li ho presi dalla realtà, come faccio sempre. I miei editor di New York, che non riuscivano a vedere al di là del proprio naso, dicevano che questi personaggi non erano credibili. Gli ho detto, facciamo una scommessa. Prendete un aereo e venite a San Diego. Se entro 45 minuti non incontrate gente così, avete vinto voi. Anche se non corrispondono a persone precise, conosco questo tipo di personaggi. Esistono veramente. Come nasce in genere un suo romanzo? Parte dalla trama, proprio dai personaggi, da un particolare, da cosa? Dai personaggi o da un dettaglio. Certe volte c'è uno strano pensiero che ti gira per la testa e poi improvvisamente esplode, come mi è successo per Le Belve. Altre volte ho un personaggio che ho in testa, come nel caso di Frankie Machine, ma non parto mai dalla trama. E questo era l'americano Don Winslow al microfono di Marta Cagnola. E quando si parla di noir, si parla di letteratura di genere, ma spesso si fa confusione fra giallo, noir e thriller. Ogni scrittore dà delle definizioni leggermente diverse, ma in generale possiamo dire che il giallo propone storie che alla fine arrivano a ristabilire l'ordine, insomma il cattivo viene scoperto e spesso punito, mentre nel noir la divisione fra bene e male non è così netta. Il cattivo, così per semplificare, può essere anche l'eroe della storia. In più il noir rappresenta quasi sempre un'analisi accurata del contesto sociale in cui si svolgono le vicende. Spesso si dice che il noir è il genere che meglio racconta la realtà. Ma è proprio così? Marta Cagnola l'ha chiesto a Maurizio De Giovanni, scrittore napoletano che ha inventato il personaggio del commissario Ricciardi e scrive romanzi ambientati nella Napoli anni 40, con l'ultimo romanzo, Il metodo del coccodrillo, pubblicato da Mondadori, che però non ha Ricciardi come protagonista, ha vinto qui al Courmayeur Noir in Festival il premio Scerbanenko, dedicato al miglior noir dell'anno italiano. Sentiamo allora De Giovanni al microfono di Marta Cagnola. Sicuramente il noir ha il coraggio di mettere le mani in una melma che normalmente gli altri generi evitano con attenzione. Il noir fa riferimento, io infatti ho difficoltà a dire noir, io parlo di romanzo nero, perché per me il giallo è, nella mia personale distinzione, un romanzo con un enigma. Il giallo è una parola che usiamo spesso a vanvera, il giallo di Belen se incinta o no, per esempio, no, francamente è un uso del termine abbastanza spannometrico che io sinceramente trovo un po' a vanvera. Il noir è quello che ambienta il male nelle periferie degradate, quindi è anche un po' consolatorio, no? Io non abito in una periferia degradata, quindi sono esente dal male, non è così. Il romanzo nero, invece, è quello che fa riferimento a quella parte buia dell'anima di ognuno, e Luca Poldermengo diceva benissimo oggi nella presentazione del suo libro, che è una risonanza per ogni persona, che ognuno di noi ritrova se stesso nella parte che non ammette di avere, che è quella che crea la fila nella corsia opposta a quella dove c'è un incidente o che crea picchi di audience a trasmissioni come Porta a Porta quando si dedicano per esempio a Sara Scazzi o a Melania Rea. Quindi per me il romanzo nero non so se è quello più realistico, ma sicuramente è quello più sincero. Un po' come Lucrezio nel Delirium Natura diceva che lo spettatore vuole vedere il naufragio della nave già da allora. Io conosco gente che cessa di vedere il Gran Premio di automobilismo dopo il primo giro, quando si è accorto che nessuno aveva avuto incidenti. Cioè sono cose oscure che ognuno di noi ha e che ognuno di noi fa finta di non avere. Qual è il segreto per confezionare un noir di successo? C'è un segreto oppure no? Allora, se ci fosse una ricetta esisterebbe un unico libro e tutti gli altri non avrebbero senso. Io sono convinto che la bellezza del nostro genere è quello di avere proprio una polifonia estrema. Cioè ognuno di noi scrive storie diverse dagli altri. Infatti noi, prima commentando a pranzo, notavamo con gioia come non solo non ci sia rivalità, perché ognuno di noi racconta il proprio romanzo, racconta la propria storia, ma poi siamo ognuno di noi lettori degli altri, che è una cosa splendida se ci pensa. Noi non abbiamo mai confronti duri, non possiamo essere in disaccordo, perché come essere in disaccordo con delle canzoni diverse o dei generi musicali diversi. Cioè noi anzi apprezziamo la diversità da noi stessi. Ecco, questo c'è cioè, di bello. Io credo questo, che essendo un modo di raccontare, quello del romanzo nero, diretto, molto franco, molto sincero, viene quel tubo che passa dal cuore dello scrittore al cuore del lettore è molto corto nel nostro caso. Quindi l'umore che parte dal cuore di ognuno mantiene la propria temperatura, perché non si perde dietro arzigogoli, dietro artifici, dietro esercizi stilistici, arriva direttamente al cuore del lettore. Io credo che questo sia il bello del nostro rapporto fra di noi e del rapporto che abbiamo con i lettori, cioè la bassa distanza, cioè il livello di temperatura uguale che c'è tra quello che raccontiamo noi e quello che leggono i lettori. Non è detto che un libro di successo sia un libro bello, non è detto appunto che scrivere un libro di genere possa essere foriero di successo, però spingere la gente alla lettura anche attraverso il noir è importantissimo. Il successo del genere fa bene a far crescere una generazione di lettori in un paese in cui si legge troppo poco? Sì, io sono uno di quelli che è convinto che qualsiasi cosa faccia entrare in libreria qualcuno è valida. Io sono uno di quelli che non spara sui libri di enorme successo popolare e di fondamentalmente molto leggero, diciamo, per usare un eufemismo, messaggio. Non sono uno di quelli che crede che le varie sfumature della scrittura, chiedo scusa per la parola usata insomma in questo modo, qualsiasi sfumatura della scrittura vada bene. Cioè io sono convinto che la gente vada portata in libreria, perché se uno entra in libreria poi ci torna, ed è un problema che noi qui in Italia abbiamo. Il nostro genere è un genere che attira in libreria, quindi come tale dovrebbe essere molto coccolato. Al contrario invece è un genere che non ci vede mai vincere premi letterari, diciamo, dei principali, non ci vede mai sulle pagine più importanti delle riviste di critica o in prima serata alle trasmissioni, eccetera, eccetera. Però noi, i nostri libri sono quelli che entrano in casa della gente. Io dico sempre che non cambio due lettori con un critico, quindi mi sta benissimo così. E questo era Maurizio De Giovanni al microfono di Marta Cagnola. Anche per oggi è tutto, qui dal Courmayeur Noir in Festival Alessandra Tedesco vi saluta e vi ricorda che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it.